bacio e scappo via. Judas seduti sul bordo del cuore, con le gambe penzolanti giacciamo nell'ombra, privi di un battito regolare. Giuda